sistema è quello di gonfiare i prezzi di ville e palazzi di lusso, ottenendo così finanziamenti dalle banche e crediti d'imposta dallo Stato. Finanziamenti e crediti d'imposta che finivano in un giro di società prestanome e di lì nelle tasche degli evasori. Alla fine della trafila, le società coinvolte nell'operazione, che avrebbero dovuto pagare il fisco e rimborsare le banche, sparivano. Rimaneva una sola società senza debiti, intestataria degli immobili, più liquidità e crediti d'imposta. Una fitta rete di evasori che arruolava un ampio numero di personalità industriali, commercialisti, avvocati, notai, una truffa immobiliare da manuale. Il colonnello Danilo Petruccelli, comandante nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Il sistema di frode si basava sull'acquisto e sulla rivendita in rapida successione di immobili di pregio, consentiva quindi di rivalutare il valore di questi immobili. In capo alle società interposte si creava un debito IVA e un plusvalore fittizio di questi immobili, mentre la società ultima acquirente di questa associazione si ritrovava quindi un costo gonfiato che si poteva quindi dedurre negli anni ed un credito IVA documentato da queste fatture gonfiate. La scoperta di queste truffe ha permesso di rintracciare false fatture per 100 milioni, evasione dell'IVA per 15 milioni, 27 milioni di redditi non dichiarati. Il network delle società prestanome contava 54 soggetti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio e Campania. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.